90. Gnocchi di farina gialla. Quando vi sentite una certa ripienezza, prodotta da esuberanza di nutrizione, se ricorrete a una minestra di questi gnocchi, potrete, per la loro leggerezza e poca sostanza, neutralizzarla, e più ancora se farete seguire ad essa un piatto di pesce di facile digestione. La farina, per quest'uso, è bene sia macinata grossa, se no è meglio ricorrere al semolino fine di Gran Turco, che ora trovasi in commercio. Salate l'acqua e quando bolle, versate con la mano sinistra la farina un po' per volta e col mestolo nella destra mescolate continuamente. È necessario che questa farina bolla molto e quando essa è ristretta in modo da reggere bene sul mestolo, gettatela con un coltello da tavola a tocchetti entro un vassoio e ogni strato conditela con cacio, burro, sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Colmatene il vassoio e mandatela calda in tavola. Se poi vi piacessero più conditi, potete trattarli come la polenta con le salsicce del numero 232 o come i maccheroni alla bolognese del numero 87.